siamo stati abituati per lunghi anni ad assistere impotenti e quasi facendovi l'abitudine ad imprese scellerate e alla crescita smisurata di organizzazioni criminali che sono divenute un vero e proprio contropotere all'interno dello Stato, condizionando intollerabilmente lo stesso sviluppo democratico del Paese. Era inevitabile che queste strutture prima o poi si sarebbero incrinate e che qualcuno avrebbe cominciato a parlare. Giovanni Falcone lo aveva capito. La lotta alla mafia ha tempi lunghi, perché loro, i boss, avrebbero continuato le imprese criminali anche nella latitanza e lo Stato avrebbe fatto molto per fermare la loro corsa, ma mai abbastanza per sconfiggerli del tutto. Giovanni Falcone aveva compreso che il punto centrale della lotta alla mafia era la caccia ai latitanti. Bisognava cioè snidarli in ogni angolo del mondo, togliere l'acqua in cui nuotavano. Quell'acqua composta da connivenze radicate nel territorio, come ricordava allora Paolo Borsellino, poco prima di morire. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa generazione, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima. Non è facile cambiare il proprio volto nel corso di 40 anni. Restare così a lungo latitanti in zone circoscritte della Sicilia non è cosa che tutti possono fare. Bisogna avere protezioni forti, radicate, fin dentro al cuore dello Stato. Perché un uomo può cambiare le proprie sembianze, ma non per sempre, non per tutta la vita. Nel mondo è potuto accadere solo a Bernardo Provenzano, Binnu, l'ultimo dei vecchi capi di Cosa Nostra. 1963, Corleone divisa in 2 clan, chi sta con Luciano Liggio, gli altri con Michele Navara, e in mezzo c'è solo una lunga striscia di omicidi, casi di Lupara Bianca, ferimenti. Alba del 9 maggio, 4 kill, Giuseppe Ruffino, Calogero Bagarella, Giovanni e Bernardo Provenzano agiscono su ordine di Luciano Liggio. Devono uccidere Francesco Paolo Streva, esponente del clan Navara. Ma Streva riesce a rispondere al fuoco dei sicari e sfugge di poco all'agguato. Sarà poi ucciso il 10 settembre. I carabinieri si fanno un'idea di quell'omicidio. Il 18 settembre del 63 inizia la lunga corsa da latitante di Bernardo Provenzano, del boss. Oggi non resta che una foto segnaletica scattata 4 anni prima. L'immagine di un uomo che sembra essere appena uscito dal barbiere. Capelli lucidi di brillantina e il volto segnato dal taglio profondo degli occhi. Scomparso, volatilizzato, ma a giudicare dagli indizi proprio no. Tutti sanno dov'è, ma lui riesce sempre a farla franca. 1981. Le intercettazioni telefoniche della polizia di Agrigento sull'utenza del mafioso Carmelo Colletti fanno emergere il ruolo di un ragioniere. Si parla dei suoi conti, delle sue fatture, che i boss siciliani vanno a ritirare in una ditta di materiale ferroso, la ICIRE, di Bagheria. Nessuno all'epoca pensa però di controllare chi sta dietro quegli uffici. Il ragioniere Provenzano. Le intercettazioni restano chiuse nell'archivio del Palazzo di Giustizia di Agrigento, allegate agli atti del maxi processo. Le bobine, ancora oggi, risultano scomparse. La zona franca che protegge Provenzano viene violata nel 95 a Bagheria. I carabinieri del Rosse si trasformano in operai, ragazzi che tornano dal mare, semplici imbianchini. Osservano le mosse di alcuni signori vicini a Provenzano. Sono Giacinto Di Salvo, Vincenzo Giammanco, Giacinto Scianna. Le loro ville erano sorte nel grande parco vincolato della villa settecentesca dei Val Guarnera. Lì, dicevano i pentiti Giovanni Brusca e Angelo Cino, si era nascosto Bernardo Provenzano. Una processione di medici e infermieri gli curava la prostata e le riunioni scandivano gli ordini per la spartizione degli affari. Provenzano però si era già allontanato, come nell'81. Gennaio 2001. Durante il blitz che porta all'arresto del boss Benedetto Spera, la squadra mobile di Palermo scopre le lettere che i figli, la compagna, il fratello Salvatore inviano a Bernardo Provenzano. Alcuni riferimenti restano cifrati. Scrive Angelo Provenzano al padre. Per una visita medica avevo intenzione di contattare, con il tuo permesso, 10122341515112. 1489647415218. Acquisto terreni. Sono stato un po' disubbidiente su questo argomento, in quanto sotto le feste mi sono visto con la persona interessata e siamo rimasti che dopo le feste ci dovevamo vedere per discutere. Tu ti ricordi di quel terreno di cui ti ho parlato, che tu mi hai sconsigliato in quanto terreno brutto? Io non ho abbandonato di seguire l'evoluzione dell'affare. E mi fanno sapere che il proprietario è disposto a vendere per 400 milioni i 38 ettari di cui è composto. I 400 io non ce li ho, però so che ci sono persone che hanno fatto affari con terreni simili e con cifre più grosse. Mi riferisco a... E così per vie traverse ho cercato di sapere come si fa e mi viene detto che ci vogliono gli agganci politici per poter farsi finanziare il terreno tramite prestito trentennale per poi realizzarci oltre il prestito l'impianto di bosco che viene finanziato con un contributo a fondo perduto di circa 8-9 milioni ogni ettaro. La svolta arriva nel 2002. Il capo mandamento di Caccamo, Antonino Giuffrè, si pente. Lui, attenzione, è il braccio destro di Bernardo Provenzano. I miei incontri con il Provenzano sono stati quasi sempre periodici. Prima dell'arresto, in modo particolare, ogni settimana, 10 giorni massimo, ci vedevamo. Incontri che avvenivano a Bagheria, spesso a Palermo, parlo di poste site in via Mariano Stabile, nella borgata Pagliarelle, in un fabbricato vicino al Politeama. Chi era il punto di riferimento che fissava gli appuntamenti? Lei quando ci doveva parlare a chi si rivolgeva? I punti di riferimento erano Leonardo Greco e Nino Gargano. Successivamente a questi due nomi si è aggiunto un terzo nome, Nicolò Eucaliptus. Come ho detto, in modo particolare all'inizio questi incontri, diciamo che in linea di massima c'era anche Cicentino in questo periodo, proprio all'inizio, avvenivano nel deposito di ferro del Leonardo Greco. Poi successivamente in diversi posti situati nel comune di Bagheria, parlo come comune centro abitato, fatto incontri con il Provenzano sia come centri, cioè come case private, che come centri commerciali. 5 novembre 2002. Le forze dell'ordine entrano nella clinica Santa Teresa dell'imprenditore Michele Aiello. Lo arrestano insieme al maresciallo della DIA, Giuseppe Ciuro, e il maresciallo dei ROS, Giorgio Ariolo. Si scopre che Bernardo Provenzano è stato curato fino a pochi mesi fa proprio nella clinica di Aiello. Emerge che Ciuro e Riolo sarebbero le presunte talpe mafiose inserite nella procura di Palermo e secondo intercettazioni telefoniche e ambientali, Ciuro e Riolo informavano tutti i giorni l'imprenditore Aiello sulle inchieste in corso. Erano le talpe, i cani che portano fuori le ossa. Abitazioni coperte, ville, masserie, cantine. Provenzano non va lontano. Non lo può fare, è ammalato da tempo. Viene trasportato da 40 anni di casa in casa, in una zona limitata, precisa della Sicilia. Ma le sue protezioni sono ancora troppo importanti. Ad esempio, oggi, ora, attraverso quali uffici di copertura lavora? Quali sono i suoi interessi? Gli affari che coltiva? E soprattutto, quali sono gli agganci politici che garantiscono oggi la sua latitanza? Roberto Centaro, presidente della Commissione Antimafia, spiega qual è oggi il profilo della mafia di Bino Provenzano. L'idea è che dopo la strategia di confronto duro che ha fatto scaturire una reazione notevole da parte dello Stato, ci si sia resi conto da parte dei vertici di Cosa Nostra che è meglio cercare di spegnere i riflettori, continuare a fare i propri affari. In questo momento Cosa Nostra è certamente meno forte di prima, ma è ugualmente molto pericolosa, continua a fare i propri traffici, ma cerca di farli in silenzio, proprio evitando i troppi riflettori e le troppe attenzioni che derivano dall'attacco agli uomini dell'istituzione, ma anche dal regolamento di conti interno all'organizzazione. Vi sono intercettazioni telefoniche che proprio parlano chiaro in questo senso. Ci sono dei boss mafiosi che mordono il freno perché vorrebbero regolare conti all'interno dell'organizzazione, ma non lo possono fare.